10 c'è qualcuno qua? Assolutamente nessuno. Peggio per te. Non sai quello che ti perdi. Ciao Gianfra, buonasera. Ciao Natalia, vabbè, che si dice che sarà? Sì, che si dice. Oh yeah. Le solite cose, caro Gianfranco, cosa vuoi ti dire? Ma mi sono seduto adesso qua e ho acceso a vedere se c'era qualcuno. No, meno male che arrivi talmente forte da poter sbloccare lo squelch, non ti sentivo. Io ne ho sempre un acceso qua, però quasi sempre sono impegnato. Ho capito. Cosa ti volevo dire? Faccio un difetto in questo telefono, il Redmi 9. Quando telefono, molte volte appena tocco qualcosa, tac, mi annulla la telefonata. Chissà cosa, ma la sorte sarà. Boh. L'ho comprato l'altro giorno questo telefono. Dipende com'è. Non lo conosco quello. E quello della Xiaomi, Redmi 9 si chiama. Ma gira gira, vado dove l'ho comprato domani, perché mi fa quel difetto lì. Deve essere come lo appoggio alla faccia, tocca qualcosa e mi annulla la telefonata. Probabile, forse c'è il touchscreen è troppo sensibile, ma comunque me lo fa anche a me, un po' raro però. E c'è qualche cosa, è molto sensibile deve essere, non lo so, vado dove l'ho comprato perché così almeno loro magari sanno come risolvere, a farlo meno sensibile diciamo. È piccolino, è quelli super economici, no? E non è piccolino, no? È più grande di quello che c'avevo io, c'ha 4 giga di RAM e poi 64 giga di memoria, io ho messo una memoria esterna e dual sim, insomma già ne ha di cosa, c'è il processore 8 core, è anche veloce questo telefono. Sì, lo sto guardando, c'è da 1 euro, magari a volte, insomma, dai 124 ai 140. E su internet questo costava 170, 179 costava. No, su cosa costava? Ma costa molto meno, anche da media volte 150 da media volte. Poi c'è un contatto comunque, basta cercare. Sì, lo so, ma vabbè, adesso vado dove l'ho comprato e gli dico quello che mi fa. L'ha visto anche mia moglie ieri, stavo telefonando al medico, tra che mi ha bloccato la telefonata. Dipende. Ma sì, siamo le impostazioni, insomma. E sarà qualche impostazione che c'è, boh. Sto cercando una cosa e non riesco a trovarla, però già l'ho messa. Stavo cercando anche di togliere lo schermo, il blocca schermo, non ci sono riuscito. Già vado al negozio. Ma perché non è un Android? Ma non ci riesci a toglierlo. C'ha questo MUI 12, mi fa una cosa del genere. Beh, sono impostazioni, display, ci sono tutte cose. Ma ci sono riuscito a toglierlo. Ricordati che pazientare prima virtù destra, la pazienza è la prima delle virtù. Guarda, lo sai quante volte ho provato, non ci sono riuscito. Ma tu ci vedi bene, sì? Benissimo ci vedo. E ti so dire che è difficoltoso, sono andato nelle postazioni, sicurezza, poi sono andato, aspetta. Allora. Password e sicurezza c'è scritto qua. E non ci sono riuscito. Perché non ti fa vedere neanche il coso del blocca schermo. Il blocca schermo è addirittura su un altro coso. E Android? Natale, che versione è di Android? Ora, versione MIUI 12 stabile, capito? Questo qui è. Vediamo un po' se te la trovo. Allora, vai. Aspetta, vabbè, dovresti trovare la rotellina con l'ingranaggio che è dell'impostazione. L'hai trovata, Natale? Sono dentro, infosistema, aggiornamenti di sistema. Vai su display, dovresti trovare avanzate. C'è schermata di blocco e visualizzazione a schermo intero. Non ce n'è avanzate qua. Dimensione stessa, combinazione di modalità, il suo livello di luminosità. Allora ci dovrebbe essere spegnimento schermo dopo minuto, 10 minuti di inattività. E quello l'ho trovato dopo 30 secondi di inattività. E ti va bene questo? Ma io lo volevo disattivare il blocca schermo, deve essere che non si può. Aumenta, io ho un minuto, quello di spegnimento schermo dopo un minuto di inattività. Ecco messo. Dimensione caratteri grandi. E quello l'ho già messo, tutto messo. Poi c'è visualizza schermata di blocco, mostra tutti i contenuti delle notifiche, eccetera, eccetera. E io ho fatto tutto quello. Tutto. Sospensione, attiva lo schermo, una ricezione della notifica, caro dello sfondi, formato orologio, sì. Però non si disattiva, in più. Io gli ho messo come sicurezza il PIN e il tocco con l'impronta, quindi se non l'accendo io non accende. No, il mio è libero, queste cose mi danno fastidio, ma fanno perdere tempo e basta. E infatti, a questo tocchio quello è sbloccato tutto, tocchi con l'impronta e sblocca tutto, almeno è veloce, di no, è un macello. Il mio non è libero per niente, perché non riesco a toglierla la schermata di blocco, qui c'è schermata di blocco qua proprio sul coso. Ebbene, non ti fa fare niente sulla schermata di blocco, dovrebbe essere semplice, o ti chiede sempre il PIN. Ehi, ti ho detto che ho provato in tutte le maniere, non ci sono riuscito. Se riesco a liberarlo è bene, se no lo lascio così. E poi mi devo far regolare questa cosa che deve essere troppo sensibile evidentemente. Come vado a telefonare, track, mi si blocca la telefonata improvvisamente. Perché però le impostazioni di Android quelle sono, questo è l'ultimo. E infatti. Vabbè, vediamo un po' cosa si può fare. Vado al negozio, non lo sapranno loro cosa fare, se riescono a farmelo meno sensibile, perché se ne va in un'altra schermata e mi blocca la telefonata. Beh, ovvio. Poi se te lo avvicini troppo magari c'è qualcosa che tocca il display e essendo sensibile ti fa lo scherzo tutto lì. Ma che cosa l'ho messo? Sto cercando, avevo comprato un manuale, cioè manuale, tutte le frequenze nuove, aeronautiche, da Amazon, e non so dove l'ho messo, è un ebook, cioè è un casotto veramente. Io lo tengo lo squelch, meno male che già ti arrivo, anche con 2 volte e mezzo ti arrivo e te lo sblocco, da se no non mi avresti sentito. Sì, poi c'è troppa gente che disturba, fischi, fischietti, trombette e tutte quelle cose lì, no? Tu hai detto CQ e il CQ automaticamente rispondo, ma tutti gli altri rumori che si sentono da vicino, da lontano, lascia perdere perché c'è la roba. Vabbè, mi sa che questo è andato. No, vediamo, l'ho messo. allora è quello in ordine, poi ci sono dei problemi. Magari l'hai appoggiato da qualche parte e non riesci a trovarlo. Deve essere si è nascosto bene, Gianfra. Sicuramente. Adesso non ti ricordi dove l'hai appoggiato. E anch'io faccio così. Quelli che fanno solo rumori, fischi, fischietti, manco li rispondo. Capito? Se uno chiama allora magari sì, ma se no... me lo fa fare, molte volte mi danno fastidio e spengo e non ascolto pure, perché stanno tutta la sera, non parla nessuno, mettendo portante, facendo fischi, fischietti, e chi più ne ha più ne mette. No, questo qua è un ebook, capito? È sul computer, ma c'è tanta di quella roba che anche facendo la ricerca non mi ricordo, no, ma capito tutto lì. L'hai messo dentro il computer, io credevo che era cartaceo, che l'avevi appoggiato da qualche parte e non lo trovavi. Chissà dove l'hai messo adesso. No, anche perché l'ho pagato. Ebbene, cioè nel computer già non se ne scappa, a meno che tu non l'abbia cancellato, ma se no già si trova. E adesso anche sto malato, ma è vero il nome, non so che ne vuole. Piace di meglio, mi fa perdere il tempo, perché volevo vedere un po' dove ti va un ricevitore, però questi non danno il nome attivo. Signor, quel ragazzo che ti stavo dicendo che è morto, quel radioamatore, era quello che saliva in campagna, capito? Era quello che, di cui ti stavo parlando io, e poi stavano parlando e ho sentito che è morto, poverino. Ero da molto che non lo vedevo io. Infatti adesso anche Amazon ci si mette, mamma mia, 3000 cose mi manda quando entro, non lo sai che sono io che entro, 3000 cose di sicurezza, stanno tutti aumentando le misure di sicurezza, però mi incubo. Aspetta che devo andare a prendere dell'acqua per bere, sono rientrato. Anch'io, cioè io ero sempre qua, anche tu, neanche tu io mi lo trovo. È certo che è un macello. Sì, sì, quando c'è tanta roba, è un macello, sì. Non ho messo sul settore delle comunicazioni, non c'è. E fra poco la tua ora è Natale, così devi andare a rifornire. E quando rientra mia moglie? Ah, ok. Queste mogli sì, ma che me ne sono soffatta. Quando non lo voglio truffi, scusa. E infatti quando non lo voglio truffi. Il fatto che poi non ci vedi un tubo, c'ho un capo a cacco, a forza di guardare il computer. Smetti un po', ma guarda che fa male così, a stare sempre attaccato al computer, ti va di un capo a cacco, a vero. Lo so, io purtroppo sono obbligato, quindi è così, però fa la stanca in una maniera micidiale. O così o niente. Natalia, a proposito, ma la radio va bene, sì, perché non è che lo sto provando proprio spesso questo affare. Ma domani di qua. Non ho capito. Cos'hai detto che andava bene? No, se come radio sto andando bene. Sì, tranquilla, Gianfra. Perché sono da tanto che non controllo niente, ma di norma vanno tutte bene, questi microfoni non mi hanno mai dato rogne. Nonostante dietro ci sia attaccato, sono tutti collegati qui al PC, di norma lo sai, no? Quando colleghi al PC capisce di tutto di più appresso. Sì, ma stanno sempre, sta la voce tranquilla, chiara, come al solito, va. Anche se non hai controllato già sta andando bene, perché se ci andavi male te lo dicevo subito. Dicevo, Gianfra, guarda che non sta andando bene il microfono. No, ma oggi è chiara, tranquilla, la voce, no, non c'è problema. Intanto ne accendo uno giusto per farle fare il giretto, perché sennò poi si sentono trascurati e si offendono questi apparecchi. E quindi bisogna utilizzarli. Tutte le antenne sono revisionate e quindi ci accontentiamo così. E tu non ti accontentare, beato te, almeno ce le hai messe bene le antenne, io mamma mia, va. C'è una frutta per questa antenna qui, io non posso salire sul tetto. In campagna facevo quello che mi pareva e piaceva, qui invece non si può fare. Già ne avevo uno o due di antenne già. Mettali a cuomane! Vai, con cuomane sarai tu prima cosa, già lo sai che ti telefono alle due di notte stanotte e non dormi. Fai da bravo Luca Fuggioni, hai capito? Ah, non parli adesso, bello bene, non parli? Se non parli non ti porto a fare lo stradosso domani. Luca, oh Lu, aiuto che mi servi, quando ci, mi serve non risponde, vecchino. Natalie, mi ero allontanato, un attimino. Lo so, è entrato Luca e mi serviva, magari lui lo sapeva come rallentare il coso, la sensibilità. Non ti ha risposto? No, fatto cata e fuga a quello. Ok, maledetti, quanto mi danno fastidio gli occhiali, non li posso sopportare. Natali, che ce ne fai? Sono qui, stavo leggendo qua la situazione. Prendi il martello, così lo istruisci subito. A volte le minacce contro questi attrezzi funzionano, no? Quando rompo le scatole le dai un colpo. Mamma mia, questi sono altri. Ma diavolo sera, aspetta, sto cercando il volume. Già sono combinato bene, neanche il volume riesco a trovare adesso. Maledizione. Che pazienza. Ma diciamo lo potevi dire la vecchiaia a Caronia, sì, Natali. E tutte queste cose. 10 anni fa non ce l'avevo. Cibio, rincoglionito. Tutto da solo ci stai facendo. Neanche io 10 anni fa ce l'avevo, Gianfra. Poi sono internatore, no? Dopo quegli anni ti vengono automaticamente. Acqua. Io pure 10 anni fa saltavo, brincitavo, già ne facevo poco di cose, adesso non posso fare più nulla. Forse ci sono riuscito, vediamo un po'. Questo è così, questo è qua. Allora, su quello ho capito, sull'altro non me ne avvento più, perché poi ti devi ricordare tutti i cosi, no? Tutti, come si chiamano? I comandi. Infatti quando cambia l'apparecchio poi se uno ha tanti apparecchi confonde uno con l'altro ed è un macello. Purtroppo è così. È un casino. Per carità. Che hobby ragazzi, che hobby. Quando uno ha tante cose poi non si ricorda più i comandi, perché se ogni tanto cambia apparecchio, giustamente gli apparecchi ognuno ha i suoi comandi, sono tutti diversi, non è che possono essere precisi. Ma sai che sotto leggendo cose del documentario di queste parti, e sotto il 26 c'è la RAI, Radio Vaticana, a 26 MHz. Peccato che qua non l'abbiamo mai sentita. Sì, infatti. E 26 sono, ci sono. È strano. Oh, vabbè, magari qua non arriva. Sì, è digitale. È il sistema broadcasting digitale. Adesso 26. C'è anche Radio Maria, però c'è potenze basse, quindi non mi ricordo dove è stata trasmessa. Ed è da 26 a 26, da 26 spiccioli. Radio Maria ce l'ascoltava sempre mia madre, sempre su Radio Maria, va via, mamma mia. Tanto non è potente, c'è dappertutto. Anche poi ci sono, sopra invece a 29 si sentono, ma anche un po' più sotto dell'1, ci sono situazioni strane, quasi incomprensibili. Io non ci sono andato mai lì a vedere. Mi ricordo che facevamo affatti TV in banda laterale sui 26, adesso non mi ricordo neanche la frequenza che era. No, sotto l'1 ci sono tutta una serie di segnali che sono i cercapersone tedeschi, no? Quelli arrivano sempre maledetti. Anche adesso vedo che ogni tanto c'è un segnalino, e sono quegli affari che si mettono, che, quando ti cercano, no? Tipo ospedali, eccetera. Ce l'avevamo noi anche qua, ma sai, quello delle cose, del policlinico, forse c'era ancora, cioè, la Gran Peni, no, non so se te la ricordi. Sì, che me la ricordo, serviva per ricerca persone quello. Sì, l'ho vista da molto vicino, perché ci sono salito su quel tetto. E poi c'è anche roba strana, che non è a livello civile, è roba a livello un po' più alto. La banda militare utilizza da 26 fino agli 80, credo, 80 MHz, dipende dal tipo d'apparato. Si riconoscono perché tendono a saltare, capito? Solo che sono segnali molto bassi di norma, tutti fortemente criptati. Una volta, deve essere tanti anni fa, non è chiaro, è uscito Signal Corp Marines, perché era in Telex, e stavo dando disposizioni, non so da dove diavolo erano questi, ma molto lontano comunque. È uscito il messaggio in Telex ed erano i Marines americani. E sarà stato dalla base che c'è a Napoli. Può darsi. Strano che fosse ben chiaro, forse stavano provando qualcosa. Prima c'erano qua la Maddalena, pure gli americani, adesso sono tutti in Spagna. Meglio così ci tolgono un grato a capo, in più tanto sono particioni gli americani. Fanno più danno che altro. Si credono talmente grandi che poi fanno le minchiate come al solito. Sì, tipo l'ultima che hanno fatto. Appunto. Una volta invece mi ricordo, non so se te lo ricordi, se c'era lo scanner, a 146 c'era il telefono lì del coso carburante della Gonzaga, se lo ricordi c'era la portante fissa. E quello, no, non era 147 forse. Sì, giù di lì era roba vecchia che il cucco, sta parlando lì. Ti vedi almeno 20-25 anni fa. E già lo so. personale in questo. È vera abbastanza vista. Mi ha pento. Sì, prima ce ne ascoltavamo di frequenza. Prima sì, ma oramai, oi, non c'è antenne guai, sono tutti in UHF e poi la maggior parte. Sì, tutti in UHF e poi criptati pure, cosa è in UHF, o c'hai uno di quegli apparecchi di nuova generazione che costano un fottio di soldi, che dice prendono anche quei sistemi lì. C'hanno il tetra, o meglio, il tetra polli, perché c'è anche il tetra civile che però non credo che nessuno usi per la mano qua, non lo usano i civili, perché costa troppo. No, già ce l'hanno già, per i rilievi hanno usati quei carrapprezzi che usavano il sistema tetra, che lavorava un tipo che conosco io, usavano i tetra tutti civili, giustamente. No, ma a chi ti riferisci tu? Al carattrezzo? Il carattrezzo lo usava il vigile che c'era? No, per il relì, quando fanno il relì qui in Sardegna, e c'avevano questi tetra. Lo stavo dicendo un amico, non quelli del comune, no, quelli del comune lo so che il vigile ha quel sistema lì. Ma non ce l'aveva, te lo dico io, ha confuso con qualcosa d'altro, perché non so più motivo che proprio il carattrezzi che c'è fuori, il tetra se non c'ha una rete ad hoc, non va. Vuol dire che saranno stati organizzati, che ne so, giustamente se non hanno una rete come si deve non funzionano, no. Da qui a lì non c'è. No, per il semplice motivo che il tetra lavora in UHF e quindi la portata è quella che è. O ti riempi come hanno riempito la città di ripetitori, o ti attacchi al tram, semplicemente, capito? E poi il problema è fuori perché occorrono molti ripetitori, e se non ha, quindi il costo è pazzesco, non è certo roba da mettere su un carattrezzi a sorridere, non ci, cioè conviene prendersi la vita e tenersi i soldi, capito? Così stavano dicendo, c'erano questi portati lì i tetra, ma A parte il costo, poi forse i portati costano carissimi. Costano più di quelli di MR, fate il conto che un DMR completo di licenza, tutto quanto, cioè per licenza intendo, per attivare singoli componenti, che sono la registrazione, il GPS, compagnia cantante, sono colpi di 100 euro solo per una piccola licenza. L'apparato intero siamo su cifre 600-650, quindi non credo che ti dici fosse gente disposta a fare quei cose lì. Poi c'era da appena una decina d'anni e gli unici che ce l'avevano erano quelli che conosciamo, capito? Ma sono uscito. Ho sentito appena la voce, tu hai mollato subito, ma dovrebbe essere quello che finisce con B. Quello che finisce con B? Non ti sto capendo. E Claudio. No, aspetta che devo uccidere questa qua che mi sta massacrando. E provo il... Vediamo un po'. Così aumento. Così lo uccido. No, basta, fare telefilm, per carità. Dunque stavamo dicendo, se l'avevo riconosciuto quello che ti ha chiamato. L'avevo riconosciuto quello che mi ha chiamato. Chi? Ti hanno chiamato e hai mollato subito. Ho sentito appena una parola, ma dovrebbe essere quell'amico nostro che sta in alto. No, aspetta, quella che senti sul fondo, perché si sente? No, quando ti hanno chiamato. Ma quando, adesso? Sì, che hai mollato subito. No, guarda, cioè ho un apparato acceso, però non è roba italiana. Dalla zona 8, distretto 4 e 6 della città di Chicago. Alla faccia. Cosa? Alla faccia, ho detto. Si posso anche dire la frequenza, tanto non... la frequenza è chiusa, non so, dovrebbe essere... Cos'è? Ah, ecco, 460.200, poi dovrebbero avere anche la 900, così usiamo gli Stati Uniti. Sono in chiaro perché di lì non è qua, l'ascolto libero, ho capito. Poi se devono fissare già fissano, ma l'ascolto è libero perché loro vogliono, c'hanno tutta una filosofia un po' strana, loro vogliono essere ascoltati per dimostrare che danno supporto alla cittadinanza, capito? Tu figurati che anche sul canale 9, di lì è il canale d'emergenza, quindi ogni stazione di lì, anche le macchine hanno sempre il canale 9 in ascolto dalla CB, oltre all'altro sull'alta 40, credo, in 40-45 mega. No, è passata la moto natalina, non posso sentire. Figuriamoci, ho detto, è che ho abbassato il microfono perché tu mi stavi dicendo che sentiva più il rumore che la radio. Sì, infatti, ho detto che è passata una moto e quindi è arrivata la moto ma non la voce. Quando parli devi far bloccare il traffico, Natale. Quando parlo devo fare? Devi far bloccare il traffico. Cioè, lo dice ai vigili, dice mica io sto parlando, bloccano il traffico perché sta parlando Natalino. Boh. Faccio prima a comprarmi uno di quei microfoni che hai tu, almeno non ho problemi. Questo invece è cucù. Beh, questi sono universali. Certo è che se lo tieni un po' alto poi, se mi dici che sentivi le voci, nonostante sia molto direzionale, evidentemente qualcosa prende, no? Anche questo. Molto, ma molto di meno di una capsula ceramica, come sono le tarme. Però il vantaggio di questi è che oltre ad avere un minimo di compressione hanno anche una certa direttività. Sì, infatti adesso me l'ho messo vicino, magari più forte la radio adesso, perché il volume l'ho lasciato com'è, però me l'ho avvicinato. Sì, adesso è tutta un'altra storia. Adesso si sente quello che dici, prima sembrava che ti stessi confessando e quindi ti stavo per dare anche la benedizione. E poi di là comunque più divertente perché stanno sempre parlando, non c'hanno introduzioni, che sono quante auto c'hanno questi. Ed io continuo, no? Vabbè che è la seconda città più grande degli Stati Uniti, quindi stanno sempre a chiacchierare. Però in questo caso erano in analogico, perché se presente, te ne accorgi dallo stacco del ponte, no? Quando fa tang, tang, tang, il digitale fa solo suoni tipo CD, sarà? Ho capito. Ma io me lo volevo comprare uno di quei portatili, ma intanto se non lo puoi usare con chi parli? No, no, che l'ha detto, usare lo puoi usare, basta che ti prendi uno di quei PMR digitali, che sono anche in DMR tra l'altro, visto che li stanno producendo con vari sistemi, e poi uno prende il DMR, l'altro prende in PDMR, eccetera, non si sentono perché non sono compatibili, però ci sono di uso libero, ovviamente con 500 mW. Ma secondo la zona sono più che sufficienti, perché il digitale a prescindere rende molto di più dell'analogico. Ehi, quello già lo so. Adesso bisogna vedere se tu arrivavi qua e se io arrivavo da te, per esempio, no? Per parlare con te magari in una frequenza PMR anche, cioè avendo uno di quelli che hai tu, che ha un po' di potenza per poter arrivare da te, però in una frequenza che io posso usare, ecco cosa volevo dire. Beh, sì, con te sono in vita ottica natale, ci mancherebbe altro, probabilmente portatile anche. Guarda, in termini di distanza, col gommino, se salgo qua sul terrazzo, chiamiamolo così, che non è tanto alto, però io vado tutta a Sassari, quindi in UHF anche con quelle potenze raggiungo tutto Sassari, perlomeno in digitale la copertura è micidiale, gommino. Lo so. E me lo stavo comprando l'altro giorno, però ho detto, dopo vuole configurato, ma cedo. Sì, Natali, sono non dico buttati, perché per la passione sai quello è altro, però poi cosa rischio di avere una delusione? Primo, perché devi conoscere molto il sistema, e poi soprattutto devi sapere che per ascoltare, anche volendo fare radioascolto, c'è molto poco da ascoltare, ecco, tutto lì è il problema. Se invece lo utilizzi tra due persone che hanno necessità di parlare a una certa distanza con quel sistema, allora il discorso cambia, ma non credo che tu ci abbia la necessità, ecco. Sì, anche per poter, quando rompono le scatole, no, se ne passi di là, e gli attacciapanni domani. No, a trovare ti trovano, perché i canali PMR, anche quelli digitali, sono noti. Solo che, sai, 2HF è una frequenza un po' strana, è molto rintracciabile. Quindi, anche se di libero uso, uno con senza troppa fatica potrebbe capire più o meno da dove sei, senza particolari problemi, ecco, basta una piccola direttiva e c'è roba super portatile, quindi te ne accorgi subito. Non è come in HF o come il 27, che è un pochettino più complicato, di lì sono quasi a colpo sicuro. Tutto lì. Comunque, quando vuoi, tu ovviamente non ne hai portatili anche analogici, se no potremmo fare una prova e ti accorgi subito se arrivi o meno. Io penso di sì. I portatili ne ho quattro. C'è un ricevitore qua. Un canale libero non ce l'hai di lì. Sì, toccherebbe prenderlo, perché non ce l'ho qua adesso qua c'è il ricevitore solo, capito? Già lo sai perché, Gianfranco. Sì, però se sono portatili PMR, PMR intendo quelli omologati PMR, di lì non ti dico niente, capito? Non puoi dire niente a nessuno. Il problema è se l'antenna si può togliere, allora non sono più PMR di libero uso, capito? Se c'è una potenza maggiore 500 mW. Tutto lì è il problema. Lo so, conosco la situazione. Quindi sai già cosa si può fare e cosa non si può fare. Io posso anche fare una chiamata, non mi costa niente. Non mi ricordo chi era, dove era meglio da tu. Però se vedi faccio una chiamata, se c'è qualcosa per ascoltare. Ascoltare sì, lo accetto. Se vai nel canale 7 ti ascolto se ci sei. Se arrivi là, ma già arrivi tu. Mi auguro di sì, ci mancherebbe altro. Vediamo se ci vedo, dove diavolo erano? Ah, ecco. Perché anche qua, uno, due, questo di vista, no, ho sbagliato. L'uno è compatto, uno, due, tre, quattro. Come c'è la macchina? Cinque, sei, sto pieno, sette. Guarda, ti saluto, Ehi. No. Non mi senti? Uno, due, tre. Quindi mi senti comunque? Manca appena. Poi cosa faccio? Aspetta che voglio fare una prova però. Che forse ho anche l'altro. Questo qua non l'ho mai usato. Non so neanche se ci sia il PMR, aspetta, ci impiega tutta la vita a accendersi. Oh yeah. Allora, vediamo un po'. Oh, dovrebbe essere questo. Aspetta che devo cercare il canale. Mi hai sentito? No, negativo. Deve essere mezzo scarico. Provo a salire un attimino sopra e ti faccio una chiamata. Sopra la terrazza che c'ho in ottica tutto Sassari. Ma so basso, ma ti sentivo la radio bassa. Allora, sì, che ti sento, ti ho sentito, numero 2. Gianfra, dimmi qualcosa, Natali, sono risceso. Ehi, prova numero 2. E nella 1 non mi hai sentito? Basso, basso, la radio era. Però mi hai sentito, ecco, qui anche quel basso basso significa chiarissimo in digitale. E quella è la differenza. Tu quanto pesano le scale? Aspetta, Gianfra, il telefono. Mi era entrata la modalità scura addirittura nel display quando mi hanno telefonato. Adesso l'ho tolta, vaffanculo, guarda, c'è un telefono, come tocchi qualcosa, guai. Il martello, Natali, il martello. Vedi subito tutto. Sto dicendo, sulla prova 2 invece mi sentivi chiaro? Sì, sì. Era gommino, Era il gommino, guarda, probabilmente anche come lo senti. Ho cercato poi di guardare dove eri tu, ma non so se l'ho centrata, perché magari stavo puntando sul grattacielo. Sì, vabbè, comunque arrivavi di brutto. E c'ho l'antenna, quella bassa è quella che c'ho nella finestra, quell'antenna di macchina mia, ti stavo ascoltando con quella, non con quella che c'è più in alto, sotto l'antenna di qua. Ah, ho capito. Sì, bisognerebbe fare la prova gommino. per vedere come va, solo che tu sei una zona, che piano sei? Al primo, no? Eia. No, e allora di lì, se conosco la zona, cioè i palazzi, se ci scontattami, da sotto non ce la dovrebbe fare. Sì. Si può organizzare, non c'è problema. Oh, a meno che tu non c'hai addirittura su quell'apparecchio ricevente l'RG58, se c'è l'RG58 allora è un miracolo che mi ha sentito, perché c'è un'attenuazione in UHF che è meglio l'apparecchio senza antenna, guarda. Ma è poco il cavo che ho l'RG58, invece in quella che è più su c'ho il 155. Ma inizia a essere frequenze altine e quindi anche il 155 ti va bene per fare delle ispezioni, delle cose, ma poi anche quello inizia a perdere, ovviamente molto molto meno di un RG58, però non è mai come un cavo serio, ecco. Se io volevo ascoltare qualcosa devo usare cavi adatti per ascoltare qualcosa, se no se usavo quei cavi lì era meglio buttarci tutto o non mettere neanche l'antenna, perché è inutile. La prova è fatta sempre per esperienza, quando inizi già con i connettori ne metti due e perdi già un dB, e quindi figurati col cavo che di passaggio già perdi da cosa succede. Sì, però intanto tu arrivavi. Ebbene. Quello sì, ma è presente che insomma le possibilità sono tante qua, è una cosa un po' differente. Quindi c'è un po' per tutti i gusti. Però ti assicuro che tutta la zona, diciamo, che c'è tra quasi tra la zona di Sassari, domino gommino va bene, spesso anche dentro casa non c'ho problemi. Ripeto, di là la differenza è che anche se si dovesse arrivare a S1 o S0, però percettibile, se passano i dati la radio è chiarissima senza alcun cedimento, ecco. Di là sì, e te credo. Poi te lo può dire anche Claudio, perché facciamo le prove ogni tanto, ma c'è un abisso, capito? È un'altra cosa. Niente, credo. E te credo. Comunque con quell'antenna di macchina, che è una 5 ottavi, alfa metro e mezzo, proprio per quella frequenza lì, ricevo benissimo. Sì, è sufficiente, anche se probabilmente non ci ammazza, e quindi qua alla fine l'accordo sarà quello che è, però come si dice, si usa quello che sia. Ehi, qua non posso fare più di tanto. Cassa, in campagna c'avevo la X300, già ne avevo poco l'antenna. Quindi qua non puoi fare nulla, se non puoi salire sul tetto non c'è nulla a fare. Se non mi avrei messo anche una di quelle antenne per ascolto, proprio col cavo come si deve. Poi dal tuo tetto credo che si veda Porto Torres, il mare, quelle zone lì. Penso proprio di sì. Tu pensa che ho l'antenna io, che esce fuori dal tetto di 2 metri solo e blu. Io sono molto messo male in ricezione. Perché già bisognerebbe sollevare quella. scatole. Poi quando l'hai fatta magari non disturbi nessuno, è tutto tranquillo, e ti mettono la portante pure. Quindi sai, te ne fanno passare la buglia. Ecco, infatti forse c'è qualcuno che vuole entrare. Sì, buonasera, ciao Natalina, ciao Gianfranco, non so se ci sia qualcun altro, non ho fatto ascolto, avanti, ditemi voi. Non c'è nessuno, perlomeno che io sappia, magari in ascolto sì, ci saranno le persone, però non è entrato nessuno. Ciao Robè, buonasera, avanti Gianfranco. Sì, ciao Robè, sì, in ascolto c'è sempre qualcuno. Tant'è vero che dopo che abbiamo smesso noi qualcuno ha mandato la portante su sette l'anno, quindi qualcuno c'è sempre comunque. Avanti Roberto. La controprova l'ho avuta l'altro giorno quando c'è stato il discorso delle portanti, qualcuno ha registrato e mi ha mandato il video, per cui c'è qualcuno in ascolto, c'è sempre. È vero. Che? Mi ha sembrato. 9! Parlate uno per volta, visto che sono ammodulato, mi pare Gianni, tu sei già. Ehi, ciao a tutti, buonasera. Ciao Gian, ben sentito. Compagnia mia di Natalino e di Gianfranco. Vai Natalino e poi Gianfranco. Ciao Gianni, ben sentito. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Gianni, buonasera. Avanti, ma non so se fosse una sovrammodulazione, comunque vediamo un po'. Se c'è qualcuno che vuole entrare, o tra Gianni, se no puoi riprendi tu Gianni. Vediamo un po'. Nulla, vai Gian. Non ho sentito nessuno, sinceramente. Vabbè, comunque c'è lui all'ascolto, mi stanno ascoltando, gli amici di Bucco mi sono sempre. Ciao Ronzio, già sotto di alternata. Il microfono, devo comprare quel cacchio di tappetti, non me ne dimentico sempre. Adesso c'è. Adesso va bene. Perché adesso l'ho messo sopra il letto e non è a fianco all'apparato, capito? Ma ti puoi mettere quelle cose in gomma sotto, quelli che si mettono nei mobili e cose del genere, sono dei cerchietti in gomma. Già li conosco. Volevo mettere un tappetino tipo quello del mouse, quello lì isola e non te lo fa più fare. E metti quello lì perché è fastidioso, puoi uscire bene, dico, magari in quell'occasione quando non ce l'hai fa questo ronzio, sembra che sia un difetto, invece è rivediabilissimo. Ok, già frate il mic. Sì, ti volevo chiedere una cosa, perché te volevo chiedere prima, vabbè, ma poi me sono dimenticato. Tu che presenti quando fai un buco nella cappotta, no? Per metterci ovviamente l'antenna. Poi, quando l'antenna la togli, eccetera, sulle macchine nuove, parlo non su quelle vecchie che potevi fare quello che ti pareva, sulle macchine nuove, del pacca, il buco lo puoi tappare senza grossa spesa, oppure è una cosa un po' costosa, va stuccato, che ne so, stuccato e è fatta una toccatina di vernice, oppure la cosa è molto più complicata. No, metterti a saldare non lo consiglio perché sarebbe troppo dispendioso. La situazione, perché devi saldare la cappotta, smontarne tutto il cerente e non lavoraccio, è preferibile mettere un tappo sigillato bene con un massice non silicone, con un massice sigillante poliuretanico, lo metti. La macchina mia, siccome era un taxi, c'aveva due antenne, una normale dell'autoradio, dietro c'era l'antenna del baracchino, diciamo, della frequenza dei taxi, ci hanno messo il tappo, li vendono anche da qualche parte, proprio a stringere, che sostituisce proprio il foro dell'antenna, tipo quando la macchina, te lo hanno molte volte sulle macchine, adesso ormai ce l'hanno tutta la radio, ma prima c'erano le macchine che avevano la predisposizione e avevano un tappo sotto avvittato, lo toglievi questo tappo e montavi l'antenna, oppure prendi un tappo, un cosiddetto tappo, glielo sigilli bene, si mette un massice grasso e lo tieni sopra, non entra più acqua, naturalmente pulito bene dove c'è il foro, cioè che prende a corrosione, anche se sono zingate nella miele, però come è forato col trapano, togli lo zingo per cui fai danno. Non consiglio assolutamente di metterci a saldare. Ho capito, quindi direttamente mi hai confermato che comunque sulle macchine nuove l'altra opzione, quindi senza tappo e verniciare, sarebbe estremamente costosa. Era quella la domanda che ti volevo fare, sempre mi dimenticavo. Ecco. Riprendi Natalia. Allora Gianni, Natalino, si è perso. Io nella mia session Vega, quando ho tolto l'antenna, l'ho messa davanti perché c'era un po' di ruggine. Avevo messo uno di quei tappi che si usano quando tu li rubiniti, ce li presenti. Avevo messo quello con un po' di mastice e non è mai entrata acqua, andava benissimo. Sì, se lo fai bene il lavoro non è da entrare di acqua. Ma non silicone, perché tutti sbagliano a mettere un silicone, non va bene il silicone, perché poi con le temperature, col caldo, il freddo si dilata e non va bene. Ci sono dei mastici specifici che vanno benissimo per fare questo lavoro. Vabbè certo, carrozzeria ci sono dei mastici. Silicone poco se li usa, forse niente in carrozzeria, confesso. No, assolutamente, il silicone crea delle reazioni, ti rovina assolutamente il lavoro, soprattutto quando c'è solvente, perché ti fa quei buchi, punti di sfilo e rovini tutto il lavoro, assolutamente, ma basta nei vapori, se tu hai usato una pistola con le cartucce del silicone, quindi l'hai usato in una stanza, poi entri in verniciatura, senza aver fatto niente, i vapori, i fumi vanno, se mi dire, se verniciano la macchina, infatti noi facciamo in ogni caso, indipendentemente che ci sia o no, l'antisilicone prima di verniciare, sempre un antisilicone col panno per pulire tutto, e nonostante tutto certe volte quando danno quei cruscotti, quegli spray a base siliconica ti rompono le scatole, ti fanno dei grossi problemi. Vabbè, verniciatura sì. Avanti Natalici, sì. Ehi, mi ero allontanato un attimo e non ho potuto riprendere quando mi avete chiamato. Via, già sono qui comunque. Grazie a voi. No, no. No, perché ho sento io. Sì. Sì, Verugani che mi ha baitelli. Che cosa vuoi? Vedi Gianfra, adesso era un pezzo che non ti sentivo. Perché io sono sempre quasi, cioè, faccio una cosa, ma ne faccio anche un'altra contemporaneamente, sono stereo. Roberti, volevo chiedere un'altra cosa, ma mi confermi che quando, che ne so, certe macchine prendono una botta, vabbè, non voglio dire lo sportello perché è scontato, ma su altre parti, tipo il longarone della ruota, dai, che c'è sopra la ruota, che in quel caso i pezzi sono, cioè sostituiscono tutto il pezzo, c'è poco da addrizzare, non si martella più una volta, cioè devi dissaldare il pezzo e rimetterci il nuovo e verniciarlo, così Fammi salutare, ma insomma, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Gianfranco, ciao Roberto, ciao, buona serata a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, Cacanella. Bene, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao. Sei Satolo, Cla? Non sono Satolo. Non è morto Satolo. Sì, come completa la radio. Così è. E io. Mi, Pedivella.